Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Speciale Voci di piccola impresa. Benvenuti a Voci di piccola impresa. Questa è una puntata speciale dedicata alla storia di un'imprenditrice che ha fatto dell'open innovation, l'innovazione aperta, la sua bandiera in un settore a prevalenza maschile quasi assoluta. Ed è una puntata dedicata anche all'imprenditoria femminile e giovanile. L'open innovation può generare in Italia una crescita del 9% ed è una parola chiave per cambiare mentalità e vecchi schemi. Le aziende per crescere oggi sono open e guardano all'esterno. Startup, donne e giovani under 35. Le imprese in rosa sono cresciute, secondo Union Camere, tra il 2010 e il 2015 di 35.000 unità e hanno contribuito per il 65% alla crescita del tessuto industriale italiano. A queste si sommano le imprese under 35, che sono il 54% del totale in Italia. Parliamo del contributo di donne e giovani in occasione di Gamma Forum, l'ottavo forum nazionale dell'imprenditoria femminile e giovanile, che si terrà il 10 novembre a Milano presso la sede del Sole 24 Ore e che premierà la vincitrice tra 6 finaliste dell'edizione del 2016. La storia simbolo che vi raccontiamo è quella di Anna Maria Gandolfi, titolare della carrozzeria Fiume di Brescia, cavaliere del lavoro, consigliera di parità provinciale a Brescia, già premiata da Gamma Donna, imprenditrice che va fiera di aver combattuto la battaglia, fare rete tra le aziende. Io sono stata insegnante per 25 anni, dopodiché con mio marito, che ha un'impresa di carrozzeria, mi sono messa con lui e non ero socia. La prima cosa che ho voluto è essere socia, quindi compartecipare agli utili e semmai anche alle perdite. Questo settore però mi sembrava molto in arretrato e grazie alla conoscenza delle lingue mi sono recata in paesi europei. Quello che mi ha colpito di più è stato il modello francese, il modello Axial, Réseau Axial, che era composto da oltre 300 aziende e insieme avevano degli obiettivi comuni di crescita e di innovazione del settore dell'auto riparazione. Quindi portato in Italia con l'Auto Promotec che avviene a Bologna ogni 2 anni, ho lanciato questa idea di rete tra carrozzieri, autoriparatori negli anni 1999. Nel 2004, quando ho preso il premio Gamma Donna, eravamo circa 20 aziende, quelle che credevano in una rete di autoriparatori a livello nazionale. Da lì l'entusiasmo ha portato a numeri esponenziali. Oggi, con la crisi, con tutti i problemi annessi insomma alla nostra nazione, possiamo anche dire che abbiamo raggiunto un buon numero di centinaia di iscritti. La difficoltà di mantenerli insieme in questa rete è data proprio dalle idee innovative da portare, di come fidelizzare il cliente, di come rapportarsi con le istituzioni, soprattutto con il governo. Certo, da questo punto di vista le difficoltà sono note, ma chi vi ha aiutato? Cos'è che vi ha aiutato a sviluppare questa idea e fare questa open innovation? Ogni impresa associata ha dato il suo apporto. Diciamo molti servizi, alcuni sicuramente importati dalla Francia, e siamo stata una delle prime reti a livello nazionale. E dal punto di vista degli incentivi? Ci sono stati a livello locale, a livello diciamo settoriale, regionale. nazionale, però non per la rete nostra nazionale. Da noi come rete sono venute poi tante altre reti. Ecco, dal punto di vista proprio degli incentivi all'imprenditoria femminile, che cosa bisogna fare ora? Rivedere quelli che finanziavano un tempo l'imprenditoria femminile, se sarebbero da riattivare? Diciamo che le leggi ci sono, c'è la legge 125, c'è la legge 215, ci sono le leggi per incentivare l'imprenditoria femminile, non vengono finanziate. Quindi queste leggi vanno ravvivate. Con che cosa? Con ogni Camera di Commercio dovrebbe pensare come va a destinare un X euro alle imprese in generale. Noi come Comitato Imprenditoria Femminile di Brescia avevamo proposto che, dato 100 finanziamento alle imprese, che almeno il 30% fosse destinato alle imprese al femminile. Quindi basterebbe poco, visto e considerato che le imprese femminili sono quelle che vanno avanti con più determinazione e, costi quello che costi, con fatica, ma vanno avanti. E visto anche i numeri, perché sono quelle che resistono di più. Perché non incentivarle? Siamo un ghetto, bene, siamo un ghetto, però con i finanziamenti dovuti. Certo, quindi il modello Open Innovation deve essere anche un modello nazionale, da locale deve essere nazionale. Esatto, quindi le leggi ci sono, vanno solo finanziate. E non solo per la donna, ma per le persone che hanno talento. Questo a maggior ragione, perché saranno i progetti poi, non è semplicemente finanziamo l'impresa startup dandole i soldi per pagare l'affitto, per pagare il computer, non solo per questo, ma anche per i progetti stessi. Sul fronte dell'Open Innovation e dell'imprenditoria femminile, la Lombardia, dove è nata questa storia, è un modello e Milano è un concentrato di casi di eccellenza. Fiorella Imprenti, capo di gabinetto assessorato al lavoro e alle attività produttive di Milano, città che primeggia tra le capitali europee come imprese innovative al femminile, fa una fotografia, dati alla mano. Risulta una visione di Milano molto al femminile, del lavoro di Milano molto al femminile. Le lavoratrici milanesi, le donne in età lavorativa a Milano, quindi comprese tra i 20 e i 65 anni, sono attive per il 65%, il che vuol dire che Milano ha superato la quota di Lisbona, che è l'ideale, insomma l'obiettivo che si erano dati anche di gruppi di promozione femminile dell'imprenditoria femminile, del lavoro femminile, l'obiettivo che si erano dati a Lisbona. Ma non solo, Milano primeggia con le altre grandi capitali europee. Questo vuol dire che Milano è attrattiva di un tipo di lavoro femminile, che vuol dire un tipo di lavoro innovativo. Noi abbiamo voluto come Comune di Milano sostenere una diversa organizzazione del lavoro più centrata sulla capacità di lavoro in team, sulla capacità organizzativa, sulla capacità di rendere conto di un progetto e di un risultato e non su una presenza fisica in azienda. Le percentuali delle donne che lavorano ovviamente milanesi intorno al 65%, ecco, rispetto a quella europea è molto alta. Sì, sì, sono tra le prime capitali, primeggia con le altre grandi capitali europee. Ci sono medie più alte, ad esempio nel nord Europa ad Helsinki, che ha un picco, se non erro, del 78%, ma tutte le capitali europee, Londra, Parigi, Berlino, si attestano attorno a quella cifra. Esempi e numeri da sottolineare, come spiega Mattia Macellari, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda, Monza e Brianza, che ha già un osservatorio per le PMI con più di 5.000 imprese attive nell'Open Innovation per fare rete. Un'enorme opportunità, un enorme cambiamento culturale. Siamo in un contesto dove fare ricerca e sviluppo interno è sempre più costoso, il ciclo di vita dei prodotti è sempre più breve, è fondamentale quindi innestare in azienda una cultura dell'innovazione costante. Open Innovation vuol dire uscire a mentalizzarsi che, facendo parte di un ecosistema di startup innovative, di centri di ricerca, di università, si può interiorizzare dei centri di eccellenza che vengono sviluppati da altri. In termini di numeri, che cosa vuol dire l'Open Innovation in Assolombarda? In Assolombarda vuol dire che abbiamo costruito questo osservatorio dell'Open Innovation che ha prodotto i primi numeri. Siamo riusciti a tracciare circa 5.140 imprese che hanno investito in startup innovative. Abbiamo messo al tavolo quindi tutti i vari attori di un ecosistema di Open Innovation, che come dicevo è sicuramente Assolombarda, ma sono anche le università, i centri di ricerca appunto, nazionali nazionali ed internazionali. Vuol dire quindi per Assolombarda farsi promotore di creare un hub di questa conoscenza, di questo cambiamento, ed essere stimolo quindi di innovazione costante nelle nostre imprese. Perché per le imprese familiari non tutto deve essere fatto in casa. E se riuscissimo realmente a fare che non tutto debba essere fatto in casa, sicuramente daremmo uno stimolo importante ai nostri imprenditori. Ci racconta la fotografia delle candidate da tutta Italia Valentina Parenti, amministratore delegato di Gamma Donna. Ci sono arrivate candidature da tutta Italia in cui l'età media è attorno ai 32 anni e il livello di istruzione è medio-alto. Le aziende avevano un fatturato medio attorno ai 70.000 euro e per il 70% dei casi si tratta di società di capitali, cosa che in passato non erano, che si finanziano con mezzi propri, ma che talora fanno ricorso anche al venture capital, ai business angel e al crowdfunding. L'hanno aiutate quali tipo di istituzioni, oppure si sono fatte da sole per diventare veramente aperte? Quello che abbiamo realizzato è che effettivamente l'open innovation, l'innovazione aperta, è molto presente ed è un fattore di successo, perché quasi tutte hanno forme di collaborazione con altre imprese a livello nazionale e internazionale e più della metà ha legami con università e centri di ricerca. Da notare anche che il 64% ha messo in atto forme di smart working e una su tre ha depositato dei brevetti. Quindi funziona l'open innovation e funziona essere aperte. Di che cosa però hanno bisogno per il futuro? La cosa più importante, che emerge veramente in maniera prepotente, è il ruolo della squadra, che emerge come fattore principale di successo aziendale, che soltanto molto alla lontana è seguito dalla capacità dell'imprenditore. Quindi questa cosa ci ha abbastanza colpito, perché è un po' una rivoluzione, no? L'imprenditrice che dichiara che prima di tutto c'è la squadra e poi in seconda battuta, abbastanza lontani, i prodotti e i servizi competitivi. E per quanto riguarda l'immagine e la fotografia nazionale, corrisponde questa fotografia di candidate che cercano l'open innovation e che la mettono in pratica? Diciamo che ovviamente il nostro osservatorio Gamma Donna si basa su un campione ristretto, però parecchio qualitativo direi, che effettivamente ha un riscontro nella fotografia che ci dà Union Camera a livello nazionale, i cui dati ci dicono che sono 1.000.000 e oltre 300.000 le imprese al femminile che danno lavoro a oltre 3 milioni di persone, e di queste il 14% è guidato da under 35, quindi fondamentale in questo senso secondo noi la chiave giovane, no? Il giovane che comunque affronta il mondo dell'impresa, il mondo dell'economia e del lavoro in maniera diversa, in maniera molto più aperta e trasversale. Le testimonianze e i dati parlano chiaro, li ha raccolti l'osservatorio Gamma Donna proprio in vista del Gamma Forum, e se volete sapere di più su questo evento del 10 novembre a Milano presso la sede del Sole 24 Ore, cliccate su www.gammadonna.it. Questa e altre storie, idee e curiosità d'impresa, anche in anteprima, potete trovarle sulla pagina programma di Voci d'Impresa sul sito di Radio 24, www.radio24.it, nella sezione Extra. Se volete scriverci le vostre voci di piccole imprese, su Twitter con l'account @vocipmiradio24, su Facebook alla pagina Voci di Piccola Impresa, il blog e il download sono sempre su www.radio24.it. Un saluto da Anna Marino.